son capace, io mi affetto ad inspirar, in quel far non son capace, io mi affetto ad inspirar, oh, Fill the heart. folla di vuoi tu sposarmi? Infelice, se l'accetta, disperarmi l'abito. Capitoliano, capitoliano, e di noi felici, di noi meglio che si dice malato e gravemente. Il suo mal non è niente appresso il mio, partirmi non possio, mille volte il tentai. Se mi vuole e lasciare la nanno, e che m'importa? Morre di fame e senza appoggio al culo, o di fame o d'amore, per me tutt'uno. Odi, tu sei buono, modesta sei nel mar di quel sorgente, ti credi certo di ispirarmi affetto, così ti parlo schietto, e ti dico che in buon amor tu speri, che capricciosa io sono, per un bar brava che in me d'osta non muoio, e me desta. Oh, Adina, e perché mai? Thank you. Voglio far saggio che possediate segreti portentosi. Sorprendenti, la mia saccoccia e di Pandora il vaso. Avreste voi per caso la bevanda volosa della regina Isotta? Oh, che cosa? Voglio dire lo stupendo elisir che d'estamore. Oh, sì, sì, capisco, intendo, io ne so distintore. E fia vero? Sì, se ne fa gran consumo, gran consumo in queste età. Fortuna, me ne vendete ogni giorno in mondo. E qual prezzo ne volete? Poco assai. Poco. Secondo. Un zecchino, l'altro qua. E la somma che ci va. Si puote con riguardo al pianino la bottiglia un po' si scuote, poi si stura quasi, vada che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada, ben, quindi all'acqua lo vicini, ben, e la bevi a centellini, per effetto sorprendente non è tardi a conseguire, per effetto sorprendente non è tardi a conseguire, non è tardi, non è tardi a conseguire. Sul momento, a dire il vero, necessario un giorno intero, quanto tempo sufficiente per cavarmene fuggire. Il sapore, eccellente, eccellente, eccellente. Bordeaux, non è di chi? Obbligato, obbligato, son felice, son contento. Si vede la bontà, benedetto chi ti fa. Obbligato, obbligato, son felice, son mirato. Elisir, di te lontà, benedetto chi ti fa. Obbligato, obbligato, son felice, son mirato. Elisir, di te lontà, benedetto chi ti fa. Benedetto chi ti fa, benedetto chi ti fa. Giovinotto, ehi, ehi! Signore, sopra ciò, silenzio, sai, silenzio, silenzio, oggi ti spaccia il lavoro, è un affar geloso assai, oh. Sicuramente è un affar geloso assai, impacciarsene potria un tantin d'autorità, e silenzio, la scaderia, e anche un'anima il sapore. Silenzio, la fede mia, saprà. O mortale fortunato, un tesoro t'ho donato, tutto sotto femminino, te domani soffrirà. O mortale fortunato, un tesoro t'ho donato, tutto sotto femminino, te domani soffrirà. Amore, mi dona ora, ti amerò per una sola, ne verrà che sia pur bella, né una sola spilla appagerà. Thank you. Sì, che la barba per poco non le mie pene domani avranno termine domani vado esulti pur la barbara spezzarmoli a testolido spezzarmi con la barbara domani domani avranno termine domani mamera domani avranno termine domani mamera domani mamera si secche mamera si secche mamera si Non so che far, maledissima, non l'ammirazione, andiamo spesso di ogni giorno, dovrebbe avanti abbandonare. Tu fossi in te, infin io tengo, apri le mani, varie buffone, ascolti a me, varie buffone, ascolti.